I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Sebastiano Barisoni. Meglio dirlo a bassa voce e possibilmente senza farsi sentire dai tedeschi, che dopo l'estate andranno a elezione. Ma quanto deciso ieri dalla Banca Centrale Europea rappresenta per l'Italia almeno un sospiro di sollievo. Mario Draghi infatti ha chiarito che non ha nessuna intenzione di modificare i tassi di interesse, che resteranno quindi ai minimi storici, e nemmeno di modificare il cosiddetto quantitative easing, ossia l'acquisto di titoli di Stato da parte della Banca Centrale Europea, che permette nel caso specifico anche all'Italia di poter emettere debito pagando molto poco quanto a tassi di interesse, addirittura i bot a 6 mesi hanno un rendimento negativo. Draghi ha anche smentito alcune ipotesi circolate sulla stampa di un eventuale cambio di direzione della Banca Centrale Europea da operarsi a giugno. Ha detto infatti il presidente della BCE: non ne abbiamo nemmeno discusso, e ha anche chiarito che l'andamento e le decisioni della Banca Centrale Europea non sono basate sui risultati elettorali. Certo, la ripresa, ha continuato Draghi, è sempre più solida, i rischi scendono, ma l'inflazione non è ancora al livello ritenuto ottimale da BCE. Se le prospettive dell'economia non dovessero migliorare, potremmo andare oltre i termini previsti sia nel quantitative easing, attualmente dovrebbe scadere a dicembre, che nella politica di tassi ai minimi storici. E il tutto, aggiungiamo noi, con buona pace del falco presidente della Bundesbank, Hans Weidmann. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alessandro Plateroti. Più che Silicon Valley, farebbero meglio a chiamarla Filigran Valley, perché se chip e software hanno reso famosa la valle californiana dell'high tech, e ora la concentrazione di miliardi guadagnati in pochi anni dai nuovi signori della new economy a caratterizzare il più avanzato e invidiato distretto industriale del mondo. Il recente rally del Nasdaq ha infatti proiettato ai vertici della ricchezza mondiale i tre nuovi cavalieri del West, nuova generazione della web economy: Jeff Bezos di Amazon, Larry Page e Sergey Brin di Google. Il fenomeno più impressionante è quello di Jeff Bezos. Alla chiusura di ieri valeva oltre 82 miliardi di dollari il suo patrimonio personale, 5 miliardi in meno di Bill Gates, che da 10 anni guida la classifica dei paperoni del mondo con un patrimonio personale di 87 miliardi. Mentre la fortuna di Gates risente del calo di ruolo della Microsoft nella nuova economia, quella di Bezos sembra inarrestabile. In soli 5 anni, grazie al boom di Amazon e del consegna a domicilio, il suo patrimonio personale è aumentato di 65 miliardi di dollari, una progressione a dir poco impressionante rispetto a qualunque altra società del mondo. Dopo Gates e Bezos, il terzo e il quarto posto è stato conquistato invece da Page e Brin, la coppia di Google, la cui ricchezza ammonta ora a 44,7 e 43,7 miliardi ciascuno. Che dire, che proprio i paperoni che invocano le tasse sui computer per equilibrare le disuguaglianze sono i primi che dovrebbero proprio aumentarsi le tasse per ridurre quelle disuguaglianze. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.